tofu dummy. Ehi, se da gufo, dove stai? Cosa faccio? Faccio e te da giovani! Dove tu sei? Ma si faccio, mi disento, mi stai romendo mi. Cosa sta facendo? Faccio qua, ci faccio, non c'hai, faccio, c'hai. Sta bello! Sì che c'è gufo triste mi. Ma ne piovi? Giovani! Ma ti sei dormito, Giovani? E te, tuo gufo, dormito, sì. Tore, grazie! Sto preparando l'aerosopa, Olinda. Giovani! Aspetta, prepara, preparala. Mica, mica ti stanno chiamando, grazie. Giovani! Che sbiglio! Sono impegnato! Attento, Giovanni, domitoci! Io e te li ho impegnato per fare l'aerosol alla 50! Allora, se no saluti nuda, amici, cicca! Ehi, mi pare cosa che in ritardo, Edu! Ma che bella mai a sinirridi, Edu! Dato, dato, ricevuto, ricevuto! Adesso pausa! Dai, vai! E a te della 27! No, no! Aspetta! Bacchi! Attento, Bacchisio! Signor Bacchisio, buonasera, bebè. Stavo innescando a primo, Stavo innescando? Adesso no, però, E allora, signor Giovanni, come la fa? Come la fa? Da una cosa all'altra, ragazzi. Mi basta una cosa e per un'altra. Adesso qui a 15 di... Prima lo braccio dritto. Orgoglio, tu altro, mi dolia. Mi basta il dritto, mi rialzino. Mi basta il sinistro e va di mare tutto l'orgoglio, l'osso dell'orgoglio. La va mi fa di mare lo fianco, a dritta. Oh, la cosa lascia, là. Calma una per l'altra, ma chi? Ho vincerò stato allora. No, io invece sono comprando di capo a Banzinita, già 3 o 4 lì. Scusa, pure addosso mi giunta. E c'è poco di marangi in giro. Non manca, no. Credo che sai, sanno, è un anno, ha iniziato male, quest'anno, Ti so che senti, e basta la cosa e ci sarebbe per un'altra, è sempre possibile. Ma con cocato posticciato, puoi immaginare un fianco sinistro, proprio l'ultima goccia di sotto, dai che mi fate male. Non hai pigliato un colpo con caso, ma che colpo, la vasca se senti. No, non cura se ne fai così, ma te. Ma posso la mezzina me l'ha calmato. E mi è giunto questo del godo a sinistra. Ma mi è passato questo godo a sinistra e mi è venuto questo fianco di dritta. E forse non l'ha già fatto. Senti, passa uno e fai l'altro, va. Non manca mai le cose, non abbasso l'altro. Perché se trovi anche più male, fino a che manco camminare. fischio di un mare ancora. Ma che, mi dà il fastidio? Non credo mai che sia fastidio. Poi a paccarizzare il ballo. Non se ne comprende più, no. E c'è ciò che sente, boh. Ma ti vede manco cane, mi fa pensare, puoi immaginare. Oh, ya. Yeah. Ma che ci mazzaro non aveva niente. Non aveva proprio niente, che ci mazzaro, pare che mi era abbassato tutto. E invece, appena visto qualcosa, ha cominciato piano piano, piano piano. E infatti, visto qualcosa che si abbassa, non riesce a dormire, mi tocca girare la sabbassa e 10 minuti verrà giù fatta a dormire. Ma lo sai, è pure un tempo. Il casino è fatto freddo, è pure un tempo. Ha ciambato un tempo e ha ciambato tutto. Già me l'hai detto. Cado, cado di ciò che ci sa che dà. A mettere, non sono finiti, no. Non deve fare niente lì, nulla, cazzo, ma se ne tu si sbaglio, deve fare nulla, manco, gira gira, devo manco bilare una pula beva, cazzo, ma immagina a conto di no. Oh. Ma di te non sono finiti ancora, no, e più bello dopo, già è vero, ogni tanto mi sono scendo a piso. Ma ti avanti, sono scendendo, piano piano si scendono. Poi il tempo è pure un favore ai dolori, capito? È pure un favore. Come ti già ballo il tempo, infatti. Ma ti già ballo il tempo, poco poco, come sa esci da piso. Penso che sei, ma come state, così chiami? Ciò che sei più movente, a vedere se riesci a calmarmi, ma niente a fare, no? Vede? Allora mi torno a pure i samedizzini, i canucchi, a freddura. È una bumata, a vedere un po' se mi cacchi, la sua voce me l'ha passata, già vai, saluti, mi do il rapporto. Sì, no, non fa aloa, non hai, passa del fuoco di aloa. Cosa? La pianta grassa, aloa, non la conosci. No, ma che ben direi? È una pianta grassa, di musi, fa di fuori lunghi. Si chiama aloa, fate di medicinale, chi sa dei dolori li fate passare. Si assorbe, è una pianta grassa, da una specie di uso, là, per questa bambina, che lo passa. Ed è formidabile questo. E la bambina mi ciao ti, dai questa che faccio. Perché me l'aveva abbassata la sciavuccia, questo dolore. E me l'ha giubbocca due voci solo. Me l'aveva abbassata la sciavuccia, me l'ha donna poi. E mi dava un po', già è buona che sta buono, Allora finiamo un poco, boh. Cos'è? Voltare in questo fratello? Non so come si chiama. Non so, aspetta che abbezzo cosa si chiama. Ah, non so cosa si chiama, chissà. Arre, mi stricchi gelle. Gelle. No, proprio mi fa chiamare la pigiatura del manico, non si è toccato, né pulsato, non ho nulla. Allora la notte mi ha fatto una crociata di Voltare, lontano era quasi perfetto. Una raggiunta di risorse di Voltare, accanto a mezz'ora non aveva più nulla, infatti non è passato. Visto fare funziona, pari. No, ma che c'è pure un vaso di giacchetti, questo me l'ha giubbocca, c'è voce, mi è passato. Però la mamma è tornato, capito, dolore, la mamma me l'ha tornato pure in sanuccia. Una passata, no, sennò il dolore non si manca mai. Sono sempre inappiccicati. Beh, vediamo un po'. Stai ignorando una gatta. Sta anche da mamma mia, boh. Aspetta, se non ti fate mai confabilità. Boh. La cosa lascia, passa una per rilascia, passa una per rilascia, sempre così so. Da 15 di più, so sempre così. Io mi sono messo lo tempo, io. Con un tempo. Io faccio mettere un po' più invece. Perché se non riesco a fare un respiro con i miei gruppi, e già una quindicina di più sono consumare il basso, il basso non passa mai. Oh. Bacca le zare, cazzo. Oh, yeah. E se c'è voce, dai, non giù a manco calo di scia, fammi due bassi, fai il motivo, ti vende e si colpi d'aria, chi si colpi d'aria fa di rimane, cazzo, chi scende di tutti i maraggiori, che ha già avuto, cazzo, e so che mezzo da padre, è pure, boh, ne c'è la pizzo, ne c'è la pizzo, mi sei già malutempo, ne c'è la pizzo, e ti terrorizza, sì. Quando c'è mal tempo, tutti li trovano in scelta, tutti. Ma speriamo che il frattempo si cambia là. Se va a muovere i valuani, anche da che sono siamo in cambiamento nel tempo, perché c'è il tempo buono. E anche stasera fa di buon freddo, domani è ancora più freddo. Però lui ha detto che scambiava, speriamo. Buonasera, grazie. Cosa mi prendi? Andavei. Sono dubbo. Che cosa posso fare? E deve respirare, deve respirare. Si fa pochi volti. Ah, dubbo preso. Ma a bocca piena. Allora. Andavei. Però con un regolatore di alta pressione. E dice Don Maria Graziano. La proposta che ha fatto. Oh ya. Yeah. Dai, non vuoi avviare male giù. Per carità. Speriamo. Si migliora, ma a me pare che ci migliora, peggioremo. La questione seria è. Cazzo, più salda, tutta pizza ne esci, eh! Non si vede giusto, tu non si vede bene, non si vede non tempo. Non tempo. Avanti, grazie, finito hai. Subito, ma non so come c'è nella cosa. Ma, faccio Maria, io di Zariccia. Ci vivo Elena, ma in sagoccia. Cos'è la gocciola? Cosa vuoi da Gio Maria giù? Cos'è che vuoi? Già, lo sai che è Elena già. Dai, che lasci comprare una cosa, questa sera di sera, grazie. Mi ci accadere un poco dal microfono alla bocca. Ma giudizio Elena, già lo conosci, cos'hai? Già lo conosci, già lo conosci. Ma passata, all'inizio è nata la costola. Infatti chi la mano ti devo. Ciao figlio, hai te di bacchi, chi c'è a fare a base? Grazie, e cos'è che sta così io non la conosco, grazie, spiegami un po', illuminacciami. Capita, lo conosce Elena, lo schiaccio asfalto, non fa niente a lo conosce. Ah, chi sa Elena, ha già compreso, e chi sta fa di verde? Cosa sto dicendo? Gio Maria già lo conosco, già c'è stato in quel settore. Vero Gio Maria? Ah, è vero, già è vero. Rientro subito, altro se ne piccio giù. Ha fatto giusto, non lo faccio, non lo stai piccendo, apro ma come l'ha fatto giusto. Cosa ne fai di tirare le roba? Tanto visto che ne già la niente. Ehi, no, io stavo in sicurezza, è un bauletta. Non vola la muta, anzi a vervente che non si può volare. Più attaccare in aria va a volare. Io faccio il buco in terra, quando fara. Graziano, è peggio di andare un buco. Allora, è il buco va a Elena. Ma se Elena che sta in 18 anni andava in buco. Ciao, ben ascoltata, avanti. E me, tutto bene? Tutto bene? Mi schiatto, metà e metà. Oh, è bel tempo, Emmy, e tu già mai pensai? Arro. sera. Ehi, oia. Ah, dura un fianco. Mi basta una cosa a tenere un'altra, Rù. Oggi, ma con qua se potrei stare. Ah, ma mi sono commissato, intanto mi sono i momenti, il cinese, attende, ma mi pare che... Beh, pisciate, eh. Ehi, a che cucci, io parli a un'ora, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, e pare che mi sia, ma senti, no, ogni tanto sono più freddo, sonari. Ma io sono, ma già dai, io, anche sanno, a prima mi fa chiamare, ero, lo godo sinistro, anzi l'ho mal sinistro, con tutto il braccio. Mi basta che su e mi viene l'altro braccio sinistro. Da poi mi basta il sinistro e mi viene il gattero l'iPad sinistra. E la giusta già crema pare a me l'ha passato. Allora, ma che mangio il braccio lo godo sinistro mi è giunto proprio dell'ultima goccia allo fianco, i chili blu più o meno. Beh, pare che mi sia un bacetto di corretica, è l'ultima goccia, eh. Beh, a che gusti io vado a lasciare la l'iPad, io sono andato in farmacia, ma ci ho pigliato un tiro. E ti dico che mi ha fatto pure un vecchio mare. Mi ho pigliato a mi pare 24 ore o due di una cosa del genere, eh. E ti dico che mi ha fatto bene, a chi non puoi lasciarmi, ne ha qui l'uretto e un buco. Ma ciao, ti la do la polizia, benzina, vediamo un po'. Beh, non mi fate manco farmi dare. Una cosa all'altra, ecco, basta una cosa e vedere l'altra. E sono sempre così, beh. Ma che ci ho mandato, pare che non aveva niente. Beh. Da una e poi ha cominciato piano piano a dormire il suo fianco sinistro, cazzo, e ti dico che non mi ha fatto dormire la sera. Beh. Allora, vedi un po', se non posso manco, non è posato né dritto. Ma che fino a scendere c'è piccolo verde, capito? Beh, a rubrico, ma è pure un tempo tuo marito. Le conseguenze di questo incidente, però a chi sono di vera che si fratture, capito? Tutti questi bestie così che si incidenti, ogni tanto ne c'è da una, magari ti calma, ma un poco da poi dovrà cominciare a salvare, adesso così, tutto da questi incidenti, avanti i suoi incidenti, però come te che sanno, cazzo è troppo che sanno, eh. L'anno passato è di anno fa a parire di manco, ma canno è aumentando, boh. E poi anche se si è caduta dal biglietto, oppure un mattetto che si è ubrato che non è stato gettato, che ha già avuto un coso, che ormai come si è Graziano che così facciamo il corso, la visita. Avanti Graziano. Ehi, ehi, ehi, rimarranni, quando venini non si esce mai, anzi, peggiorane, buh, a me mi lo rilassa la treccia, proprio la piglia di una goccia, tu? E come gira il tempo? Ehi, lo giro io lo stesso giorno, la goccia proprio da chiamare, la piglia dura, e ci fosse poco in volta, lui morto in passato. Solo mi faccio un capogiro da macchina e devo passare. Sono sempre a Basilica. E cosa devi fare? Non mi duri amici frati, mi giro di mezz'ora giù. Se non mi tiene questa roba, boh, è tutto duro che mi sono fatto un e ce la fai anche l'altro giù. Va bene, quando la sto pure lui, non la fai sicuramente. Ma Rofasi ancora bene, mi pare che toccando alla Rofasi o Bacchi, avrei si può fare che cosa ne dici? A me mi pare che bisogna andare fra i raggi a fare la saldatura. Per carità, cazzo, uso che alle testa più becca te siamo più male, ma tu dimmi tu capita, sta rovescio che a Gesù Cristo si ha fatto. Allora, arrivi via a uno stessetai, che avessi tranquillo, quindi noi travagliamo oggi, che tu senti, che la godi, che pensi no, godi malanni, godi. Che sbagliato Gesù Cristo, ha sbagliato in pieno. Di tenere una intenzione di gente che massacremo a dolore, non avremmo ritirato. E vabbè, di avere pazienza, di diritto, e sopportare. Avanti, grazie. Ehi, ya, mi sono capito di una scrivania, si le ha messo le flette, bella, tutta la volata, adesso, bene, vestita in pelle rossa e il mobile, la scrivania è color noce, va 4 garage, 5 garage, bella, però presto non c'è. Omaggio, diciamo di che, dice omaggio, grazie. Scrivania, scrittorio, 150 per 83 per 75. Con il legno massello di Mogano, tipo Pizza e Bada, ministeriale interamente intagliata a mano e composta, va? Ehi, tu grazie, sempre, poi sta sempre componente, poi c'è a casa. Abbiamo a te, fai tutti che si va a comprare, grazie. Anche ne ho un po' a noi, a me se riusciamo a comprare che cosa. Davvero mi si ne dai un po' a noi, buonasera a tutti. Ciao Giotto, buonasera. A te immagini, sei più secca di comprare. Chissà cazzo di la fa sotto la mattone, cazzo, via da Edu. E lui, cazzo, morendo di fame, cazzo. Non lo so io, bobo. E di grazia sempre comparendo. Cazzo, danno un po' a noi, grazia. Ma... non lo so, vero signor Bacchi, buonasera. Buonasera Tore, che ne ascoltavo. Ma io ne vuoi burlare, no? Io chi non fa via di nare rimane soccupato da prima in campagna. Il nostro rimane soccupato da prima in campagna, chi non fa via di nare. Invece mi ha passato un po' di una graffiana, e ha fatto entrare. Ti dia, ma fatti la linea della vestina, Romacco, Bacchi. Andà, ti vedo lì, non sei. Vai, grazie, falli, dagli un po' di resti, bisogna visire la gatta macchina. La mano non comprende più me. Fatemi sempre passare a 10 euro la cassa. Le casse sono da 14 kg. Fai cosa, in omaggio? Se ne servono, Giammari. E che cosa? Passate a 10 euro la cassa. Ce ne sono 14 chilometri. No, me l'ha giubilato. Lascia dire, avevo biliati. Lui sa che c'è il marito un biliato, uno. Rinna voglia battato. No, non mi si fa, se non sei fiatore, mi. Ahi, se è passato un altro, mi, non è passato di pura, beh, per pura terra, sta staccata. Mi ha passato, ma è due. La terra ve la posso pure attaccare io. Rifondo, piglio un po' di terra e ve l'attacco. Così è battito. E basta portare in campagna, ma sì. Casa. E com'è che si chiamerà Grazia? Si chiama Sarapino. E che lo occuperà la campagna? Non lo dici, beh, cosa vedi? La cartina, beh, no, non ci penso se sa chi ha. Ma ti fa la consegna a domicilio. E casa Italia, via la cartina, oh, ma chi? Consegna a domicilio. Mi serve la camuzzinaggio vero. Così a me la camuzzinaggio è ricca e sono passato. Non sarà roba di notte, non sarà no. Sarà roba di fuori, la buona in terra, la brutta, la buona cascetta. No, che già si vede di qua, già si vede. Per la fotografia del passato. Il novinaggio fotografia del passato, solo te l'ho fatto vedere. Avanti tu, a che serve a te la patata? No, catta, non basta che ciò che faccio. Non mi basta per il momento. No, io la svegliato un sacco, la giuccia pure la giuppina, battato bello, Era bello veramente questo battato per la giuppina. Con ognuno, però non mi da mettere un brigio come tira. Era veramente bello, però non abbiamo bene, perché. La cosa la bisognava fare, a voi la battata, e la battata tu, bianco bianco, per terra grazia, non ve la via chi so è, e la bedrosci tu, non mi ha compreso. No, non rispondi, e poi tendi il computer un battata perché canta è grosso. Ah, aspetta, sto mettendo a caricare quello, che c'è scaricato. Carregheggia lo gatta, in basso a filare a caricarlo, avanti si alto. A te, bubu, uso che io ci graziano, storie! Ehi, no, ehi, catta, io non ho battato io. Siamo in volta, poi anche io devo comprare in internet, non ho compreso, hanno bisogno di supermercati, buru. Ehi, quasi già voce cadevo, non mi devo battato lui. Capito? Così che, no, io ho giù dei sacchetti, così che, a voi la battata. Grazie, piglia di un bello bocco, un po' di rigaraggio. Ma se la vai dare un computer, Graziano. Grazie, ma la vai dare allora. Avanti, signor Bacchiglio. Ma tu non ne vuole battaggio, Bacchiglio? Ehi, è vero, ho battato. Io ho giù che hanno pure un battato. Ma questo? Ed è già, come se da tanto. Ma di sì o di ferro? Sasse, che tu vedi a giugno faccio battato. Ah, io pure a un anno faccio bottino pure, cappella mia. E tu non ti ha battato, santato le viuche, se l'hai fatto un po' battato. E mi sa la graviglia lì. Allora, era tu viene graviglia che su gradone va via, no? Però, a picchia panna, a picco non ha giocato, a chi era la gramigna. Ma quando gli ha battato era lo spettacolo. Da voi non ha giubbuccio bio, a dire la verità, A chi ha giubbuccio lo San Benzina, la gramigna, della gramigna. E l'ha giocato a 2 anni. Beh, lo sai che non fai un pezzo di gramigna in alto, e a pieno, non riesci a cavarne via. Per chi su gramigna, ma chi? Taggi bocci, sapessi la fare la gramigna, cazzo, tutto l'ha distrutto, tutto. Io fa la gramigna, adesso quando fa la gramigna, sono stato io pure. A chi vince? A fianco alla serra, in deponia di vasetti dei fiori, Vittorio Secchi. Era piantata la gramigna, l'abbia seminata la gramigna, ed era un tappeto e non entrava manco un giorno, di tanto veniva. Ha cercato una passata di riservante, ma dopo i 15 giorni è cominciato a diventare giallo. sta che c'è secco da ciò montonato e si passa la moto zappa e non venne nato più, non se ne vede nulla, manco un pezzetto da fare la medicina. Ma io faccio, sono guardato dalla Diaz, io metto che fai la mia, già ho fatto, no? E su così, io faccio vedere pure la fotografia, ma date questo tipo di medicina, proprio a distruggere la gramigna, era. Catta, mi ci sono così, come ti hai detto, un tappeto, era. Ma è da giocare da picco, ma usa canto. Niente a fare, né più né crescia. La canta ci dà bastante il cammino, due volte per la giurata, Prima la giurata due mesi, dopo un mese per la giurata, è vero che ha tutto già il fiore, no? Ma dici, fa un annetto, dici, no, non tocca, lascia tutto così. E se ti sono così, ma che se tu andi, va. Non si cresce, solo bisca cresce, boh! No, non cresce più, non ti dà le fermate, non cresce più, è fittita, capito? Avanti, diciamo, cosa, Graziano. Ehi, vabbè, vuol dire che se le compreranno gli altri. Io già, signore, ho preso l'altro giorno. E il figlio, da chi su di Zennari, chi passa con un furgone, e le passato di campagna, e poi da qui, mi non cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, ma è funghi cardoncelli a 10 euro al chilogrammo, ti interessano? C'è la via io silenziosa in campagna. Avevo comprato una balla di quelle di coso della questa Diaz e ne ho fatto 6 kg, capito? La balla è 30 sci, cardoncello. Io ce l'avevo qua nel pianerottolo la balla. Quando ho deciso ne ho fatto 6-7 barattoli, da questo ne ho fatto in campagna. A chi accudiamo di mucchina? Ma se in campagna non è una pieci non lo cresce più, si secca. No, già scendevo a innaffiarla già. Però poi mi ha stufato e non la di più innaffiata, se la girampata è messa al concino. Capito. E infatti dopo se non è una pieci non cresce più nulla. Non cresce più, si secca e boom. Avanti to. Grazie. Devi innaffiare, poi diventi anche più alto di 20. E allora, eri il tuffo di mangiare il cardoncello, uno sottoso l'avevo fatto, poi dimmi, ne fai a parecchi. Però poi, ma è stufato. No, il tuffo mai, lo cardoncello è sempre buono, sottoso, un verde, sul friso, e il patarrucco. Ma se pensi che mangiare è sempre buono, grazie a. Già lo so, però quando mangi un bene una cosa stufa. E lei si è ottono piantato nel cardoncello, balla, pigliato il naio. Non mi si fosse accapparare a risa, ma piaciri, catta, non lo so io, e nemmeno pianto. No, è una palla di baglia, prende una mucca di cose, di nylon, e mi sono i buchi, da questi buchi esce il cardoncello, in cantina, in magazzino la buoni, basta che ogni anno gli spugnano portata leva, ed è una signora. La deve pure in nata sui cavalletti, come ti mi la via io, in occhio un pianerotto. Sì, ma sai cos'è, che nella cantina mia aveva bugio. Vetro bugallo. Ma già c'è lo stesso. Al buio vuole il torre, il cardoncello, se lo esci. Ma ci vuole umidità, ci vuole una percentuale di umidità, se no non ti esce bene. Poi innaffi, pare, è sempre vaporizzato di l'acqua ogni giorno. Sì, cazzo, gli sta pressa edu io. Ma, sto prima compagno Miro. E mangiarlo direttamente. E no, comunque se lo fai tu però, se lo vedi nascendo, lo vedi crescendo e via, poi se lo vedi mangiare, avanti Gian Marino. Grazie alla Cuffelli, e tu fa l'orto botanico va, e il sudarraccio. E tu alla Cuffelli, poni tutti i cibo, meno male non piatti pure i banali, ti si girate, piedi pigiati, grazie. E dopo la trici! Ehi, non hai compreso che mi era di senne cosa? Cosa hai detto? Ehi, vabbè, sorvoliamo, va, Bacchi, riprendi! Ehi, ehi, ehi, Graziano, non fate dire. L'indiano fate, fanno fare lo sera. Ehi, capito, hai, Graziano, te già pianti le banane tu poi. E allora, l'orto mio posso piantare tutto io, va, e chiunque posso la serra, e pianto pure le banane. Pianta banane, grazie, grazie, pianta banane. E allora, banane in cinquista. Ah, figlio, uia. Beh. Uia. Oh, lascia di giocare la piazza, ma giubilato l'uomo. Per derrame, Bacchi, mi hai dato una boccetta in polvere e un sacchetto da 3 kg in più, Maru. Ah, mi hai pigliato il figlio pronto, hai pigliato. Beh, era il tuo per derrame e mi ha dato... Prima mi ha dato una boccetta da litro, il balissier, e più mi ha dato un sacchetto da 3 kg di... un sacchetto. A babbo, e ho finito un miscio, balissu. Quando fosse la bomba piena, vi romisco, capito? Un po' di uno, un po' dell'altro. E ve lo drogo a tutti i drocchi dell'albero, ve lo drogo. Sì, infatti. O dai uno, dai l'altro. E dovrebbe essere bottiglia bordolese, perché c'è scritto. Allora, è scritto biologica. Così è. Boh, vabbè, non me la metto come te. Ah, te li posso dare quanto voglio, no, il dronco non le fate niente, è vero? Il dronco non le fate niente, ma se non è curato brutto la voglia, che se non gli dai la dose iuca, ti la brucia la roba, capito? Se erodete il paziente, evitate il paziente alla voglia, a chi si vede da il più forte la brucia. Allora il dronco non le fate niente, il dronco basta che ammazzare i microbi. Ehi, allo dronco, io non vedo quello dronco solo. Alla pianta proprio no, alla foglia no. Ah no, solo al dronco, a chi è un bel di malattia, se è stato che ci dronchi, che a tutti a pezzi dici pure male, mi viene che a pappetta e ci voci, niente, dice che faccio tutto pieno di senti, cazzo. Si chi si ammaccia nei chibiti, che sta specie del bambina che poi, e si guarda i chibiti in senti, ma se riprodotti la medicina e accrepani. Che posso così? Un paio di bocco, no? Tutto allo dronco, però, solo allo dronco. E più poco, un poco di colla, pure, per attaccare, capito? Da poi, a maggio, gli dico una cattina, pure, gli dico. Infatti, è un poco d'adesivo, lì, quelli buoni, per attaccare. Un po' di adesivo. Ma ieri mi maggio preparato la ragazzina, la ricordo una passata di gattina, vedi un poco. A chi se no la bromicola accanto mi si magna. Sì, va a finire, va qua, la cosa per la doggo. Paga la fine mesi per la doggo una bella abbassata, Sì. E infatti, faccio pure l'adesivo, ci metto pure l'adesivo. Così che fa attaccare. E da poi con la gassina, capito? Se fosse tutto il dronco bianchi, tutti canti, certo. Come si capita un po', si distruggi un po' che malattia fai da musica lì, ero dronco, gatta. Baccare specialmente lui varracò come. Gatta, era bella la matessa, capito? Era bella la varracocco, tutto era bruno, si attacca centriato di roba. Mi sembra anche in altri. L'abbiamo passata, ma siamo fatti un poco di tempo buono, dura buoni e leva di mia cava e fece andare buccio. A chi fidatevi da bentaggiagata, vero dottore? E allora, piano piano, leggero leggero. Storia se ne intende, mi graziato, ora se ne intende queste cose. E allora, voi fatta come te di genitore, beh, da giagata, adesso, così, la prima era che fa se non te ne la cava, alla seconda no, alla terza sì. Sono il Galli, e ho visto un po' che calcestruzzo, ti ripeto in calcestruzzo. Eh beh, tutto scorreggiato ti ho sentito, Macchi. E vuol dire stavo scorreggiando, anche adesso? Adesso ho spostato, adesso no, prova. Ti mi ascolti bene. No, Macchi. Prova. Vedi, un po' scorreggiato ancora sono. Così no. Sì, dai, insomma, scorreggiato, mi intendi? Per forse. A chi ci mandano si è fatto una pagina lecce e allora quasi come sta la membrana di otto parlanti a la lecce. A proposito, ma la rimasta come chiamare i guattolisi, è una cosa strana. E cos'è i guattolisi? La rimasta di un guattolisi. Chi vera Franco voglia un controllo, mi controllare da Franco. California. E io. A domani. E tra solo la domanda a controlli. Sempre il suo controllo. Oh, perché è fatto tutto strano, me. Chi sono 14? No, mi sono cassentato, a voi non intendi a risciugare, 23 hai tu, intendi a lo splattere. Va già un giro, il 14, è tutto strano, boh. Cazzo, ma che mai ha voluto? Ah, dallo 23 siete passati a un controllo aereo, mi sia? Sì, era in PMR, ha avuto un controllo in PMR. Poi io il 27 mi ha dato il controllo il 27, siamo passati dalla 27 a dare il controllo. Ed era il mio controllente, altrimenti era fatto l'antenna autocostruita. Voglio sapere se la scende o no. Poi arrivi a noi, a Radio 5, perfettamente bene. Sempre controlli, va bene, controlli qua, controlli là, chi la fifa là, vero tu? E allora, prima arrivi a tutto quanto mare, non riuscia, invece a controllare Drobiele, ce la posso a posto, poi arrivi do a 9.5. A me pare che non li funzionava per la leccia, Alice. Ah, boh, non esaccio come funziona. Oh, me parò due. Oh, ya, carifere. Era il ragazzo, l'antenna, era OBL, va via, OBL l'ha saldato e dopo uscì, vabbè. Poi uscì a bomba, poi uscì. La bossa ha posto l'OBL nel capo, gli uscì, vabbè. Uscì, vabbè. Era proprio perfetto. Graziano, l'abbiamo chiamato, non si è inteso per nulla. Graziano, avanti, riprendi, gira le manassine, quattro lì. E cosa rimane, boh? È un io, non vedo io rimane, ma sì che vedo. Ma le manassine, poi dopo si è ritirato, non sapevo mettere il viaggio, non accada che c'era niente. Però dopo è già teso. Mi sono come se è fatto la giaudì il 14, si capisce? Non ha gestito nessuno e non ha gestito tutto. No, ma io ha gestito subito. No, ha gestito a Franco, insomma, i controlli e basta. La buona ha gestito accaduto subito. Così. E cosa vuoi fare? Stasera mi si vuole rimbaccare la macchinetta di caffè. La capisci, non mi servi. Ma arrivi la della macchinetta di ribelli, grazie. Ma ti ho fatto ribelli a tre buchi. Ti maneggevo lei, mi. E a batteria, quando si scarica, lo attacco. Ti ho fatto i capelli già tre volte, ancora già. È attiva la batteria. Ciao funziona bene, di macca, raso di fare o metti di fare bene? No, ci sono i riduttori, metto il riduttore, 3 mm mi di lago, di chi si due zuffi che faccio, arraso no, mi hanno fatti di un paio di voce e boom, ma mi ha preso a capo, allora mi di lago 3 mm, che un poco di ripara, vero d'ore? Giusto, già è vero, un pochettino bisogna lasciarli. Tipo spazzolino mi compreso, la vita è dello spazzolino di ridenti, così graffi a buono. Io si puoi fare gratuita quando è così, capito? Tipo gratuita mi faccio. Ehi, a chi quando baletta mi dice, gratta mi dice, abbaccio un capo e la gratto con un capo. Ecco, ma chi so che ne fai così? Dopo? Ma poi sai, Giammarì, fatemi tu pure così. Ma i cani non ti rifai, oh, grazie in campo, quando ti fai quella macchinetta. Come ti fa a fatti precisi? Che è il riduttore, no? Che taglia e ti lascia la misura giusta, ti lascia. Quella è per 3 mm e rimane in tutti i bei, pari a 3 mm. Ma chi gira, diamo la grazia a fatti bene. Aiuto, 5 euro a taglio, a macchinetta. La forbice non la uso, macchinetta. C'ho le varie misure, mi dica a misura voi. Ah, bisogna pigliare un metro, ma chi è? E vedo un po' le misure, là. Secondo la misura che è, Giovanni si paga, Ah, così è. Allora, chi sa 3 mm e 5 euro, si dà voi 10 mm e di meno in capo, 8 euro la forza. Ma ti deve fare pure i vasetti, ti deve fare pure i vasetti, vero? C'è anche la lama per le vasette. C'è quella la taglio capelli, poi alzi un tassino e esce la lama per fare le basette. Pure la barba mi posso fare con ghissa. Va bene, abbiamo contratto e macchinio veniamo da te. Tore no, è a chi tore a volando. Vedo tu. E me ne posso quasi a raso. Tu te li fai come me li faccio io, sto uguale. Io prendo la macchinetta, ci innesto quel riduttore, 5 minuti vi buono, posso una passata da legge e una data legge verso l'ananzi. Boh, ed è fatta, assai vi buono, va. No, ci vuole poco, si paga poco pure. Allora con 2 euro uno fa delle pere. Con 2 euro e 50 ti posso la metà di un capo, Insomma, noi non si può contrattare con questo, a metà si fa dei travagli. Ma per forza, se a metà è tu buro. Faccio due giuffi, faccio. 2 euro per un truppo, faccio una 50 centesimi. No, che la corrente è aumentata, e quando carica della batteria di carica più uno di là. Caricare avevo poco. E devi caricare in altra moto o in altra macchina. In altra macchina. Io avevo poco, poi te ne un cofano. Giovanni, mi fa caricare, l'avevo pagato. Ma se figlia poi ne un cofano la batteria. Ma te ne immaginerei, se cazzo. Io grazie. E poi prima di tutto, come amici te ne va pure il conto due. Cazzo, allora si può far completa la cucchiore con 2 euro. Ehi, fammi un prezzo fisso, là. 10 euro non li va a vedere più, Anna! No, è troppo. Se non si fa il conto a me a Bacchisio, no? Vero Bacchisio? È troppo caro, se no è che fa si fa i capelli e shampoo. Vabbè, lo shampoo gli altri rubongo incluso là, solo shampoo e capelli. Ma la barba è a fasci. Ma la barba 6 euro là, a barba. Posso una strada e una parata. ma no, allora andiamo da Cosmo, da Figaro, poi viene di Siviglia e si risparmiaggia un bel. Parotti, se va a piscire, ogni tanto mi viene la tremurita, è uno tratto raggiù, tratto che ci usa il racchino. Ogni tanto, però, mi viene un po' di tremurita, Allora sei pericoloso. Bacchi, è una tremurita, Non ti vedo, poi tutto che si cava a capo. Dai. Adesso ne approfitto, chiedo che hanno solato e per cui chiedo vai a domani se coincide, ma chi? Boh, presumente saluto in casa, a 38 ore, e a grazia, vai, grazie a riprendi tu, io chiudo che c'è gente, vai. Ehi, ok, buona cena, buon tutto, saluti da parte Paoletta, a domani se coincide. Vai Bacchi, 5 minuti ancora da Besaro, vai Bacchi! Ehi, ciao domani, buona serata, grazie dei saluti, ricambiati da parte del Correa. A domani, ci sentiamo, ciao, buonanotte. Avanti Tore! Ehi, buonanotte, grazie, sogni d'oro, ok, ci sentiamo. Ciao Maria, chiusomi, io tocco a 5 minuti. E io sono disponibile, barba, sciarpa e capelli, però te lo sto faccio la tremuretta ogni tanto, Bacchi, non so quanto di voi sta convini a chi secondo voi te la poi barba non si nesce più, non lo so io. Comunque Giammai, scusa, buonanotte, sogni d'oro, ci sentiamo domani se coincide, ok? Anda bene, riprende Bacchi. Sì, gli ho detto, si è assicurato cosa, Graziano. Paga l'assicurazione da voi. Sì, paga l'assicurazione. Cosa ci vuoi fare? Però bisogna averci di messi dalla cadria. Appunto paga l'assicurazione. Ah, la sorte, una più del diavolo, Lisa. Che c'è l'Italia non conto in Italia, no, i veri. Ma tu pare che sei pericoloso. Infatti. E invece che me ne posso io a luna. Che rischio è pericolo? Tanto che tu vuoi rischiare. A me da te io che non so come fai di presenti. Non gli ha dato mi viene un attacco di tremurita. Allora no, grazie. No, non vedremo più. Non ci siamo più, né assicurazione né niente, c'è una tremolita, sei pericoloso. Meglio nulla allora, mi faccio il cappellone. Ah, va, dì la tua moglie, così tua moglie ti consiglia, vai da Graziano, vero dopo. Ah, non lo so io. Io so di me. Poi di Bacchiso non lo so, che di te ne manco. Quindi io mi vedo solo di me. Vero Bacchi? È chiaro Tore, hai ragione, io è pericoloso, pericoloso, non da fare, uno diventa cappellone e barbone, meglio così che siete accorto, a chi con Graziano in Italia d'Italia l'occulto direttamente. A me ne posso dico, sai se posso seduto quindi bene a un giro di barba, posso tutto un giro, barba e pelle, vai. E saliscia la barri, saliscia! pericoloso sì, grazie, no, non ci siamo più. Non ci siamo più. Pericoloso. Noi a tua moglie le fatti tu ripeti, no? No, andata la Limbugli che è parrucchiera. E era bella parrucchiera, era via Ulisse e Dumi, via Magellano. E che vi infondo, noi lei, non so che ci fai ancora, sta parrucchiera, ancora, mi pare di no. No, fai ancora, grazie, è sempre lì, questa femmina, ma lagna che penso a puntare. Ha lavorato lì, mia nipote, e c'era un sacco di anni, gli davi onda, robustella, era. Non so che la parevi come di voi. La vedo sempre, Barbara e che vuole ci siamo. No, la padrona, ella lavorava con la padrona che era cugnata di Edda Martino. Sono apparentati in Burguetta. Giuse si chiamava. Non lo so, non la conoscono, no, la conosce la padrona. Ehi, la conoscono un bel gente, lavorava lì, faceva le beni, le tinture, messe in piega, poi invece non va più andata, provava e fa con tutti i travagli. Casimiglio, e Casimiglio con tutti i suoi, chi si guagna si può andare in busciacca, non lo vado dall'altro. Hai capito tu? Vai. Sì. Non lo so io di quella parrucchiera dov'è, però non so nulla. E poi fa a domicilio, la giamme, vedi? Fa tutta la trassatura e te ne passa in casa. Ah boh, no, non la conosco io. Non conoscere, vero signor Bacchi? A tutti lo facevano da farti ripetere, io vado a farmi ripetere da Edda. Le fate burare i maximi, non li fate girare in fede. Che bravo faccia. E io mi riposo, ma tu mi zuppi che faccio? Io pure prima mi fazia, non mi posso te ne fazia, accanto invece faccio pigliare di nuovo la mantronia di andare a vai piedi. Oh, mi pongo 5 minuti, adesso mi ho preso quest'altra macchinetta, leggerissima. La biglio, 5 minuti ci metto. Ma assai mi pongo. Sì, anche il Viperi di Adiva se vuole, hai preso 2 minuti. Manco posato se è cadria si è servito. Infatti, che porta mi prima di farmi io, andate dal barbiere, da Francisco, oppure lì, da chi si che per la via di casa tua, che vede in fondo di là, ma non mi ha messo il nome. Che era prima dipendente di Francesco. 2 minuti mi pugna con la macchinetta. E io la ci regalava, ha visto? 15 euro di minuti, non me ne posso io. Ma non ci sono più andato, mi ho preso la macchinetta. E me ne posso io. Tanto me ne posso, precisi quanto me ne faccio io, ha detto. Dunque. Sì, sì, Antonello, che c'è in fondo alla via, dritta, di fronte a Barbara. Sì, Antonello. No, che cosa, io ando di Francesco sempre, però è Salvatore un figliuro, vai. Ero figliuro, va. 12 euro, manco posato la cadria di Bisà. Ehi, beh, Antonello, ma c'è anche Giacomo, che ce l'ha, il latte dolce, super, ce l'ha. Dove c'è verso il suo Giacomo, eppure Giacomo già è bravo lo stesso, anche Antonello già è bravo, quando ero piccino me li fazia o Francesco o Antonello, o qualche volta Giacomo, qualche volta, e dopo ha detto non la giù più fede, ma me li posso io, a chi la giù regala 15 euro, ma a sera. Giacomo figlio del zio per ieri. Giacomo, in via Bellini sopra, vicino da Vacchino. E cosa? Antonello 15. Come che cosa? Gerri Roma Tessi, dipendente di Antonello. Il figlio 15, Salvatore 12. Capito? Sono tutti una famiglia, so. Avanti so. Io ti riporto gratis. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, signor Marino. Ciao Bacchino, ciao Tore, ciao Graziano e saluto a tutti i componenti. Avanti Tore. Vede questa fotografia, Mi è arrivata bene. Caspita. Pensa di dire buccia in asso. Sì, ma l'avevo messo in campo, quello l'ho fatta, l'ho messa. È quella che ho provato, dottore, è quella che ho provato, quella di Bacchino. Adesso arriva a fine la prossima settimana, arriva il cavo, lo prendo e lo piazzo, così lo tengo qui dentro in stanza, perché sennò mi tocca rimanere fuori per freddo pure. Bene, avanti Bacchino. Ok, ok, tutto bene. c'è anche il signor Graziano, mi. Graziano, vai per Marino. Ehi, ciao Marino, ben sentito. E adesso io chiudo là. Sono le 8:10, mi devo fare l'insulina. Ok, va bene là, ben entrato Marino, ce la risentiamo alla prossima, che è già tardi. Rilancio a te, ciao Tore, ciao Battista, salutone anche chi è l'ascolto. Riprenditela Marino. Sì, ciao, grazie, ben sentito. Buona cena, saluto in casa, alle prossime. Bene, avanti Battista. Sì. Graziano, buona serata. Notissi, buona insulina, tu ti fai l'insulina, io mi faccio a Pasqualina, che è meglio dell'insulina. Avanti to. Ciao Graziano, ci sentiamo domani. Sogni d'oro, se ride vi va. Ok, ciao Graziano, riprendi Mari. Ok, sono io. L'altra non si vede, l'altra è la direttiva, adesso, l'altra è la direttiva che sta lo stesso, e adesso quando arriva il cavo, lo tengo il cavo, così la butto dentro qua nella stanza, poi in estate ne scendo tutto, gli diamo una bella pulita, le piace il radiale, visto che c'è solo un radiale con l'antenna alla 27, tutti i gorracci, mi hanno parlato tutti i radiali, i gorracci, tutto qui avanti, tutto. Non lo sai che così. I gurracci sono fegati, hanno le vele, devi chiudere la trasigata oppure con i biombini, bing, e ne le fai pure. Sì, adesso vediamo, quando scendo le faccio un lavoretto, le faccio il foro, le metto la vita soffrettante e la blocco. È rimasta solo quella lì attaccata, è rimasta e basta. Avanti, bacchi. Poveri fuoco. Ci vanno i colombi, ci vanno le cornacchie, ci vanno tutti sui radiali, ma solo la gurraccia no. Anche i colombi si posano sopra, tutti gli animali, e quando non sono più fissate, va da oggi, va da domani, il vento poi, in questi giorni, era forte, la portava a dondolo e ne farà in forza, hai capito? È per quello. Ma se ti fai il buchetto, ti metti una vite e si fermano. Avanti, sia a Tom. Grazie, fatto. Antonello, avanti, buonasera Antonello. Ehi, ciao, salutoni a tutti, ben scucciti. Avanti, Tore. Buonasera. È stato Giulietto, buonasera anche lei, avanti. Scusate, un attimo. Oh, Mari, puoi passare un attimino sul canale 23? Mi occorre un controllo, che ho un problema con la radio. Solo per un controllo, poi ti lascio libero e ritorni qua subito, ok? Sulle cazzo, sto arrivando. Ok, grazie, scusate, riprendete, riprendi Tore, ciao, buonasera a tutti. Ciao Giulio, buonasera. Ok, riprendi Bacchi. Giulio, buona serata. Queste greche a controllarti. Bene, Meda, avanti tu. Sì, dai, dai. Non è andato gente nei biribiribi. Beh, andiamo dove andiamo. Siamo rimasti io e tu solo. È sicuro. Io e tu e Tore. In tre siamo. E mi dice Sì, ogni tanto esci. vabbè, è entrato Antonello Buru. Ciao Antonello. Ehi, salutone a tutti, bene scucciti, come va? Tutto a posto? Sì, grande a posto. Se no, vai da te. E se no uguale, diceva quello là. Andiamo, vai, andiamo. Dai, dai. Tutto frosciato, sì, Antonello. Buona serata, avanti, ci mi ascolti. Non ci arrivo, no, il conduttore dell'Antonella. Strano. Antonè, Bacchigio, lo senti? Ui, c'è problema a ascoltarlo, ma un bel basso me lo sento. Aspetta che mi stanno chiamando. Bacchigio, ha detto che ti sente molto, ma molto basso. Sì, con le patatine lui, basso basso, in mezzo al QRM. Come ti sente lui, lo senti tu. Così è. Sono entrato, buonasera. Che andava e anda? Benissimo. Ma stai uscendo con quell'antennino lì? Come quello che ho io? Carino! Ma com'è ce l'hai? Pensavo che stavamo parlando con questa persona. No, negativo, è... Con il solito antenna sto uscendo, Otto. Non c'ho il capo, c'ho solo una spezzone e basta. sono settore, l'ho messo tanto per provare, sto qua. E la prossima settimana piace tutto. Arriva il cavo, mette i piedi e così la butto all'interno. E fuori c'è troppo freddo, avanti. E vabbè, dai, la metti a posto bene. Poi vedrà che uscirai bene. Oh sì, l'ho fatto con la prova, va benissimo, spara bene, anzi. Se riesco la metto leggermente più in alto ancora, se riesco, ma un altro momento, là, diciamo, sempre di una solita antenna, tipo qua. Va bene che l'aggancio che ha fatto Battiglio, anzi, ha fatto 13, tutto qui. Avanti, Battiglio. 13, 14 ho fatto, grazie. Non lo faccio, bisogna vederla un po' in funzione. Io sto usando quella lì, la piccolina. Sto usando la piccolina adesso, Marisa. E comunque stiamo bene, già ti ascolto benissimo. Sento un leggermente quel reme, però la modulazione è chiarissima, eh? È chiarissima come modulazione. Boh, aggiorni, deve essere che bisogna bagnarla. Mi sa l'unità, confronto a Tore non sento nulla. A Tore sento tipo una telefonata, sei bella pulita. Invece te c'è un po' di QR come sottofondo. Perché sono QR matto, come c'è Antonello? Antonello mi arriva tutto imbavagliato. Invece a me arriva pulito Antonello, limpido, limpido, limpido. Quindi è la zona bastarda. Vabbè, io ripeto, sto usando sempre quella solita antennino, sempre il solito antennino sto usando. Adesso appena preso il cavo uso anche il tuo. Usiamo il tuo, usiamo, anzi, se mi rompo le scatole nel stato non lo distacco e lo metto. Lo metto dove c'è questo l'antenna, insieme all'antenna televisione, risulta leggermente più in alto, anzi, figurati. E così si mischiano insieme e non si vede niente. Sì, in effetti lo metto così, tanto lo metto insieme e ciccia. E risulta anche più in alto, anche più libero, avanti sto. E infatti è così. Bisogna farsi gaime, boh. Piazza tutto e fa così. No, perché sul tetto adesso si può salire, capito? E non si salgo sul tetto, sono le tegole bagnate, meglio evitare. In estate, quando c'è bel caldo, un dopo pranzo, metto la scala, salgo, pronto, ripiazzo, stringo e butto giù, tutto qua. Adesso l'unica cosa che posso fare solo quello là, collegare il cavo a quella di Bacchisio, perché sono all'esterno, non c'è bisogno di scala e ciccia. E poi ci vediamo in estate. E beh, Bacchi, come ti senti oggi? Meglio? Oh, sempre KO, sempre KO sono. Fino a che dura quella mala sorte non andava bene. Lo so, guarda, a me il mio. Adesso è il periodo anche per me, ma il periodo mio è marzo, aprile, io ho una debolezza, pazzesco, anch'io soffro di quella roba. E ho le gambe le proprio a sempre ubriaco, assontonato, poi c'è una stanchezza addosso e a me 2 o 3 mesi le vanno così, 2 o 3 mesi. Oggi stamattina ero morto, lavorando ero morto, proprio, non lo so, e non posso prendere nulla, che non posso vedere, anzi, ma non posso vedere nulla, non piglio nulla, già basta con 2 pastiglie sto prendendo, 1 pastiglia prendo, piano piano. Quello che riusciamo a fare facciamo, tanto c'è domani, dopo domani, ce n'è il tempo, avanti tu. Bisogna starci calmi, sopportare per un po', vedrai che dopo già passa piano piano. Esatto, no, vabbè, a me lo fa ogni anno, adesso. Ogni anno, questo periodo, adesso abbiamo iniziato a prendere l'antistaminico per cosa? Per l'allergia, dunque. Solo che la debolezza, la stanchezza rimane perché il periodo è cosa, anche il fiore delle fave e altre cose, dunque lo so, solo che quello e basta. Avanti to, già passerà, avanti Bacchise, scusa. Debolezza. Capogiro, demoni, le gambe con le mogli. E non voglio fare nulla, ho capito, eccolo lì. Bene, io ne approfitto del microfono perché sono arrivate le 8 e è arrivata l'ora mia. Benissimo, ciao Tore, buona serata, sono dal QRA e grazie della compagnia. Irene per Marino, ciao, ci sentiamo, ci vediamo. Grazie alla compagnia anche per te, magari sia piccolina. E per chi era poi l'altro? Antonello mi sembra che era poi. Antonello, non mi ascolta la sua volta, se vuole buona serata. Ma chi c'è a questo istante, si mette il micro per Marino e ascolta il finalino e poi chiudo. Ciao a tutti, buonanotte. Ok, sono io, ma chi qua ti ha mandato una foto su WhatsApp, non so se l'hai controllata. Benissimo, buonanotte, saluto in casa, ci sentiamo domani se coincide. Bene, avanti to. Sì, ma chi, ci sentiamo domani. Sei andato tu bene, ok, ciao. Ciao Marino, ciao Antonio, adesso la controllo Marino, adesso la guardo. Un po' scuro ma già si vede, dai, poco a poco. Bene, avanti Antonello. Ehi, saluto di Bacchisi, io lo ascolto un po' male, boh. Sento solo il fruscio. Devi sistemarsi bene l'antenna che qua una volta arrivava, adesso non arriva più. Non lo so, io lo sento e la notazione è chiarissima, però c'ha sempre le corremie come sottofondo, comunque già l'ascolto. Invece la tua modulazione insieme a Tore è forse meglio di una telefonata, chiara, pulita, limpida, tutto qua. E allora Antonello, tutto a posto? Sì. Ehi, è tutto a posto, io mi sono cambiato il cavo della Mantova, gli ho pezzato nuovo e poi ho cambiato il cavo alla direttiva. Ho messo la possibilità di avere quello rigido che avevo prima. Sto usando le 1058, ed è perfetto, stazionale 1-1, è un bijou, sento tutti bene, e penso mi sentiate anche voi bene, quindi ho recuperato tutto adesso, adesso è perfetto. Poi il cavo rigido adesso provvisoriamente l'ho lasciato qua, poi lo toglierò tra un paio di giorni, cercando di costruire un'antenna, devo pigliare 5,50 di cavo, e così sistemo, faccio questo bazooka, vediamo se funziona. Ma stai usando la direttiva adesso, non so, sì? Sì, la direttiva con l'ODG 58, prima invece avevo la direttiva con questo ODG 59 e non andava bene, sempre ogni tanto stazionari oppure perite del segnale, cibo basso, adesso invece è perfetto, sento tutti bene, tranne che Bacchisio che vabbè arriva molto basso. Sì, vabbè, Bacchisio anche la zona un po' maledetta, tutto qua, è la zona maledetta, no, ti ascolto bene, anzi, è una telefonata, Antonio, è una telefonata, è bella, limpida, forte, tipo Tore, diciamo, avanti to. No, la bonita assomigliata alla mia, a me, no, cominciamo, la mia e la mia, chi sia d'Antonello e chi sia d'Antonello. Antonello c'ha solo la modulazione più forte, la tua è più delicata, la tua, se mi incosi, mi segui, ma mi sta uscendo una cosa, avanti Antonello. Maria, come stavi dicendo? Tanto sei cattivo, io sono avanti to. E di la telefonata e basta, là. È una telefonata, È stereofonica. Andiamo, dai, chietta, bebe. Adesso sì che ascolto bene. Non ho problemi, ma questo cazzo di cavo è un casino, madonna. Sono salito ieri sera, gli ho detto, se piove, se non se la piglia il Napoli, vedete, che era tranquillo. Sono salito 10 minuti veloci, ho cambiato entrambi i cavi, ed è perfetto. Andiamo, bebe. Ehi, vabbè, dai. Andiamo, bebe. Limpida il Recco Auro. Dunque, insomma, la antenna non la stai utilizzando, così? No, l'altra, la verticale non la sto utilizzando, la X300, anzi, gira, lo smonto pure. Intanto non le faccio nulla. E qua, in debadda, capito? La smonto e la pulisco bene e la conservo, magari, non so. O se non me la vendo, se qualcuno la vuole. 50 euro e la faccio fuori. E la mia è nuova. Capito? Cosa fa? VEU, giusto? Sì, fa VEU. Ho capito. VEU. Avanti, to. Invece la mia fa di 4-1. La cosa fa 4-1? Ma chi fa di 4-1? Una cosa 4 e modulo gioco 1. Ma non sei mai? Cosa vuoi fare? Accolta Antonello, accolta che d'altro, a modulare ci sono una voce. Ah, cosa, perché... Io, quella di Antonello è un po' altina, cos'è, 2 metri la tua antenna, Antonello, giusto, mi sbaglio? Una cosa del genere, dovrebbe essere un 2 metri, hai capito? Perlomeno, i radiali sono in acciaio, quindi non facendo anche la smontare, la piazzare, non so, l'altro. E conviene toglierla, la pulisci bene, pronta a piazzare, poi il primo che c'è la vendi, se non fai nulla, e ciccia. Avanti, Tonicino. Come ne fa così, boh? Smontarla, pulirla per bene e conservarla. E appunto, pensa che si è tolta la cosa, se uno l'ossido o cosa dell'altra, è un peccato. Se non la stai usando, meglio toglierla. Tutto qua. E l'attacco del PL come ce l'ha? Sotto, Antonio, o a fianco? Sotto, isolato, è dentro alla parte metallo, quindi non ho, l'acqua non entra, capito? Tipo con la vittoria di Bacchiglia, ce l'ha sotto, sotto. Bene. Avanti, Tonicino. Sì, io ne approfitto. Docciamenti, ok. Ci sentiamo domani, Mari. Ciao Antonello, alle prossimine. Ciao a tutti. Ok, ciao, sto, ben sentito. Ciao, sono in casa e buona cena, a domani. Dai, avanti Antonello. Ciao Tò, ci sentiamo, buon corretti, buon tutto, alle prossime, stammi bene. E buona cena. Ok. Antonio, tuo fratello come sta? Bene, ieri stavo mangiando fagioli con coso, con cipolla. Stava già tranquillo. Sta facendo fisioterapia, quindi adesso un po' meglio già sta. Perlomeno, già di abbastanza tranquillo. Adesso lunedì devo fargli la documentazione sua per il foglio ISE, in modo che sia a posto, se no non rinnovano, capito, la fisioterapista. E sempre il foglio ISE, una battaglia, e va, vabbè, interessante, stia bene, dai. Quei fogli per farci voglio, so che non vengono, stanno venendo a casa così, Sì, c'è la fisioterapista, c'è come si chiama, vengono a casa, c'è l'infermiere, ce l'ha già tutto lui, va dal medico, non devo andare io a fare le tutte queste passeggiate da un ufficio all'altro, che c'erano tutte le balle da me, perché dovevi andare prima lì, da lì dovevi salire su al secondo piano, poi dal secondo piano c'è di nuovo giù, è diventato, guarda, una cosa allucinante. Alla fine ne uscivi sbronzo senza bere. È una battaglia, io lo so, sì, è una battaglia, da un ufficio all'altro, poi da un ufficio all'altro non vanno neanche d'accordo, io non so molto come te faccio per questo mio personale, io gli trovassi, magari è automatico, è un capo automatico, da un ufficio all'altro non vanno neanche d'accordo, sì, guardi. Vai su, ti crociene giù, vai giù, ti crociene giù, boh, neanche loro stanno molte volte, ma... E vabbè, invece le infermiere già stanno per muoversi, entro l'ufficio, entro la parte e così via, e ti prepara tutti i documenti, dai. Sì, quello è così. E ci voleva una persona che si faccia le passeggiate negli uffici, che sia preparato per fare queste cose, quando uno ha le prime armi, esce di testa, deve andare in quell'ufficio, fare quei fogli, poi da quei fogli scendere di nuovo in giù. Fatto timbrare, poi eccetera eccetera, è una passeggiata un po' lunga, amica, non è che sia acqua. Poi devi prenotare la prenotazione, poi intanto non ne vengono subito, vengono una volta al mese, capito? Poi c'è la questione del catetere, e quindi ogni tanto lì si infiamma l'aggeggio, e quindi o viene quello lì l'urologo, oppure ce lo devi portare tu al pronto soccorso per fargli cambiare queste catetere, perché non sai che diventa nero e poi si infiamma, gli viene l'infiammazione, gli viene la febbre eccetera eccetera, e poi gli vengono i dolori addominali, capito? Perché a volte si blocca l'urina, dipende da se sta per dire un po' di tempo senza bere, per dire, non come me, che beve acqua, eccetera, eccetera, lui ne beve molto di meno di quanto la bevo io, quindi lui ne la fa più concentrata, capito? Appunto, c'è che a te fai guai, vedi un'infiammazione, si sa di un dolore, per carità, vedi venuta, brrr, solo pensate mi viene con la fissa di me, solo pensate, figliati, perché fa male me? Infatti io non ho mangiato, ma so che fa male, frigge così via, la sai un punto delicato dopo. Perché da lì va direttamente dove c'è all'interno, hai capito cos'è il problema? Poi c'è questo palloncino, no? A volte magari per sbaglio tac, ti tiri appena appena e gli fa male. Poi dove potrei avere il catetere sopra, lui ce l'ha proprio vicino alle palle, gli hanno fatto il foro, hai capito? E quindi è peggio. Per carità, boh, mamma mia, non ci vuole pensare, guarda, io sono fifone, non ci vuole pensare, mi è venuta, per carità, boh, oh, io, via. Lui già sta bene comunque in coso, là, l'hai controllato, dunque meglio di prima, là, sei un po' libero adesso, no Antonio? Sì, sono tranquillo, sono libero, stavo facendo in testa con queste cose qua. Tra quello poi dare da mangiare a lui, cambiargli come si chiama a una certa ora, hai capito? E quindi è un casino. Poi quelle buste non servono a un tubo, quando si riempiono di urina si gonfiano e si spaccano da sole, hai capito? Perché sono buste che non servono a un accidente, la farmacia ti dà quelle perché c'è solamente quelle per risparmiare, hai capito? Tutto risparmio. È tutto a risparmio, non c'è da fare, invece essere leggermente più robusta e più sottile. E logicamente per calore, ancora dall'altro se lo spacca. Se come con un uomo spacca e scopri tutto, ohia, per carità, poverino. Sì, chi c'è catetere perenne è messo male, sì. Non è che puoi andare a fare urina in bagno, no? È come diavolo fai. Non cammina lui, capito? Se avesse camminato almeno. Siamo andati in bagno, avevo fatto le sue cose e invece sei costretto anche addirittura a pulire la merda con i corsi, hai capito? E sei sempre con questo affare qua, quindi a un certo punto, se lui si caga a mezzogiorno e tu hai appena mangiato, già la fai l'affare, cazzo. Marcello, purtroppo... Purtroppo diciamo che non è colpa sua, là, quando viene lui, no? Ma c'è una bizza, vedi qua. Quello già è vero. Quando viene lo stimolo non c'è nulla di fare, non è che devo stare a tappargli il buco, no? Deve essere per non cagare. Deve fare le cose sue. E meno male quando l'avevo ricoverato avevo dato 2 giorni massimo di vita, capito? Secondo la testa dei medici. Invece già è bello tranquillo, già 3 anni che è a casa, quindi figurati. Devono fare un po' di errori questi medici. Loro sono a sperimentare, non c'è niente da fare. Beh, Antonio, mi stanno chiamando. Beh, sentito, è stato in casa, ci sentiamo domani se concilia, dai. Salutoni, tutti i sottoni e QRT per me, dai. Ciao Antonio. Sì, ciao Mari, ci sentiamo. E ci vediamo al limite di questi giorni, ci vediamo qualcosa. Ok, stammi bene, buonanotte, buona carica, buon tutto. Ok, tutto ricambiato, ciao. Sì, io, ciao. Chi è là? Tutto dopo. Dimmi tutto. Poco fottuto. Fottuto, non fottuto. È fottuto, ok. Allora. Ma sei uscito? Sì, sono uscito a portare il cane a fare la pupù, fare la spesa, eccetera, eccetera. E poi sono entrato qua a casa. Anche perché c'è un pochettino di fresco adesso. Poi sta piovendo. Ah, sta anche piovendo. Sì, io sento le luci adesso. E sta piovando. Sto capre. Nessuno, no? No, c'erano tutti poco fa, poi sono fuggiti, credo che sono. Cioè sono andati tutti a cena, sono andati. Ah, dormiti, so. Lo sai che alle 8 vanno tutti a cena, poi va la nanna, dopo le 9. E tanto cosa va? Ho venuto in giro. Mortorio. Mortorio sì. Vabbè, Mortorio, c'era Salvatore, c'era cosa, quindi non è che se fosse Mortorio, no? Salvatore chi? Tore, squalo. Giuseppe non ho sentito ancora Giuseppe Leoncino, deve essere che sta cenando senz'altro. Adesso mi sono cambiato il cavo, sento tutti bene adesso. Stazionale 0, è perfetto. Ma prima un cavo che c'avevo RG59 era un troiaio. Non avevo nessun guadagno né niente, tutti col QRM li sentivo, almeno adesso li sento tutti bene. No, ma anche qua arrivi bene a Puglia. Fondo scala, sì. Sono quella, la solita antenna, quella verticale, quella direttiva, figurati. Adesso la, per la migliorare il tempo, salgo su e ne stacco la cosa. Next 300, tanto non ne faccio niente. E la lampada in kiwi, se la tengo a fare. Per quello ci metto un'altra antenna, faccio un dipolo per i 45, cosa del diavolo ne so. Adesso vediamo un poco. Allora, questione di antenne e antennini, eh. Cosa ne faccio? Tre antenne, cioè i due per la V e la U non faccio niente, basta una. Tanto non è che sto pensando, se avessi avuto il ponte allora sì, l'avrei utilizzata una. Per installare il ponte l'avrei utilizzata per quel motivo lì, la verticale. Ma siccome il ponte non ne ho, cosa ne potrò fare? Per lasciarla marcire sopra l'antenna, no? La pulisco bene e la conservo, mi conservo anche il cavo e gioco a posto. L'impianto quando è a posto va tutto bene, se poi hai problemi sul cavo, poi l'antenna è un po' messa male, allora va male. No, già è a posto l'antenna, la direttiva, a Puglia. Bene la tratta, ho visto. Ancora, gli avevo messo il vulcanizzante, si ricorda all'interno, avevo tutta pulita bene. Ed è perfetta, non c'ha un coso. Lo metto in verticale, posso mettere in orizzontale. Se lo metto in orizzontale, sono sicuro che spara il doppio. Perché, capito? Ma già diceva benissimo anche così. Sento tutta la zona di pedanie da lì qua. Tutti quelli che parlano in PMR li sento tutti quanti. Lì da ogni euro, da coso. Poi sento quelli che parlano da Trentino, quelli che dalla centrale di Fiume Santo. No, io sono col gommino però. Sì, vabbè, tu sei col gommino, io sono col coso, con quello grande, capito? Sto usando quel grande, il gommino, portate il gommino, ne ho due e li uso per fare antenne e cose del genere. Quando vado a fare qualche impianto TV, quelli porto appresso e li utilizzo per quello, se no. Anche per me, quando esco, per dire fammi un giro, mi porto il portatile, così almeno camminando stesso mi faccio una ciaramedata, 5 minuti, dopodiché chiudo e pazienza. Ma con quanti watt stai uscendo però? Un bel po'. Per quello che arrivi a fondo scala qua, se si abbassi di male manco arrivi. Se abbasso già arrivo lo stesso, perché arrivo. Però non arrivo, cioè, come avere un coso, capito? Io sono con un watt. E a voi abbassa e avanza. Un watt. Un vatti. Un vatteri. No, sei in discoteca? In discoteca? C'è una dica che non vado in discoteca io. Sono minimo 10 anni che non ci vado in discoteca. 2-3 volte sono andato con Giovanna. E un paio di amici e poi ci avevo portato anche Simona, figurati. Quando ho visto la scena ho detto non vado più, no, tutti vomitando alle 4 alle 5 del mattino, c'è che andava a spacciare nei bagni, hai capito? Tutto mia, l'acqua è rosa, la mamma fa culo, ho detto da caso ci vado a fare discoteca, a vedere queste cagate, tutti fusi. Dopo che bevevano 4-5 cocktail, tutti nel divano, vomitando in terra, che schifo, ragazzi. Io facevo figurine, la panini. Alghero è andato via, figurati. all'uscello, al coso, volato che c'è lì. Uno schifo, ma schifo proprio. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, tutti belli, fatti, sbronzi, vomitando in terra. Chi si metteva a spacciare nei bagni? Ah vai, aiuto, non vado più, la discoteca me la faccio io a casa, impiglio lo stereo, me lo accendo, metto a ballare e se la piglio in Napoli. Forse è l'unica, via. Vabbè, se ci vuoi fare, purtroppo, gente lì vive così, in quella maniera, ormai è un vizio. Non ti sentono, sento il fuscio ma non sento la parola. Ho detto che quella gente vive così. Lo so che vive così. Vanno il sabato, capito, già vanno mezzo bevuti. Prima di entrare in discoteca, capito? A forza di voto, qualcosa del genere. Poi lì si vada ancora di più. Arrivata alle 2-3 del mattino, che non ce la fanno più, vanno a vomitare. Il discorso è quello. C'è che si caga addosso, che ci pisce addosso, va, vi la vai, va. Per carità. E lascia di morire, fregate. Sì, ma quello non è andare a divertirsi in discoteca, no, quello è andare a sballarsi, per quello allora è meglio se facevamo tanto tempo fa, ti prendevi per dire un localino in affitto, ci mettevi un pianto serio e per dire qui 7-8 persone di cui si magari frequenti tutti i giorni, capito, balli lì e ti diverti lì, almeno non c'è gente strana, non ti devi azzuffare con nessuno. Vabbè. Basta non andarci in discoteca, si va nei circoli, si beve una birra, due birre, tre birre, cinque birre, dieci birre e boom. Ah beh, quello sì. Io lo credo, ormai parecchia gente sta facendo così. Cosa va in discoteca, tu fatti. Trovi magari quello lì che è mezzo sbronzo, piglia per magari una parola che ha detto, e ti tocca pure a farvatti. Io ieri mi sono bevuto dalle 8 di sera, questa mezzanotte, quasi una cassa di birra. Dalle 8? Dalle 8 a mezza, quasi l'una era, dai, una cassa di birra, a bocca a terra ero. Beh, io ho creduto due casse di birra, piano, se le bevi una salata congelata ti fa così. Beve belle piano piano, a temperatura come si deve, no? Congelate dal freezer. Così ti ammazza, a parte ti blocca lo stomaco. Vai, sto scherzando, mi devi così in questo cuoiacotto, va. Ma lascia perdere. Due casse di birra, se ti ricordi bene, le bevevamo in via di Seddu, quando andavamo tutti i cibi in grefa, in Chivi. Ma a casse abbiamo campato a Carlo per 7-8 anni abbiamo campato. Ogni anno dalle 8 del mattino sino alle 10 e mezza di notte, sempre bevendo birra. E i tavoli sempre pieni. Ma quel circolo esiste ancora? E quei periodi tutti bevevano, se ti ricordi, un giro Alessandro a quella del giorno, un giro Gesuino Poggiallo, un giro Pierandrea, un giro Andrea Maricumio, un giro Guidato, dalla mattina alle 8:30 sino alla 1 avevamo sempre bevendo birra, poi la sera non se ne parla, verso le 4, facevamo quel tempo a mangiare che dovevi scendere subito giù, io scendo giù, Ale, ci beviamo una birra. Fizzare le notte, cosa è, dai, arrivavo a casa io, non ci volevo neanche accennare gira, figurati tu, allora abitavo nella mansarda su, poi c'era cosa che portava la birra, la fainè, Gianfranco con la luta, te lo ricordi, quindi la voglia di bere e mangiare, a dove con questo loro è. Ah, Gianfranco con la luta. Incontro lavoro mi portava la fainera, veniva ogni due notti, ogni due giorni, adesso dopo che chiudeva la fainera, pigliava e portava un pacco di fainera, 4-5 birre, mangiavamo lì e bevevamo lì, in mansarda. E già faceva buona, là? Sì, lo so, adesso lavora al 118 lui, con l'ambulanza lavora. L'ho capito. Che adesso lavora con l'ambulanza al 118 Gianfranco. Chi non ho più visto sono le sorelle, che prima erano sempre lì in coso. In negozio. Non l'ho più viste. Manco io. Vabbè, una era morta, Silvana, tanti anni fa. di questo non lo so se, la, se una è morta. Erano in due, mi ricordo, e non l'ho più visto né una né l'altra. Poi, che non l'ho più visto lì al monte, sono Silvia e Silvia Splendida. Non so se sono vive, se sono morte, se sono sposate, se sono trasferite. Ogni tanto la vado a Silvia, sia una che l'altra. No, io non l'ho più vista. Avete, prima intanto, quando c'avevo la moto, salivo su, passavo e bevevo una birra lì al bar. Quando salivo lì al monte, mi fermavo 5 minuti, bevevo una birra e poi me ne andavo a casa. Ma quanti anni fa? Quanti anni fa? Prima di chiudere il locale, già lo sa che... prima di chiudere il locale, ti parlo forse saranno 10 anni fa, una cosa del genere sarà, se non di più pure. No, di più, ma c'è cosa, Marco è in Germania, fratello. Quindi Marco è in Germania, vivo da lì due. Tutti spariti sono, cioè non ho più visto nessuno dei cibi che c'erano lì al monte, a parte a te, tuo fratello, perché ogni tanto glielo vedo. Poi tutti gli altri che c'erano al monte, tutti pariti sono. Tutti morti. E da quando è arrivato questo il computer, la maggior parte si rivete lì a... capito? E chi l'ha eliminato. Anche che ho carbonato, no, l'unica che vedo ogni tanto è cosa, quella che modulava qua nella... in via Guadamalfa, nelle palazzine rosse, vicino a Fabietto. La vedo spesso perché la madre abita lì, vedo lì la sorella e lei con un paio di bambini. L'ho visto l'altro giorno, ha salutato. Forse come poteva salvarmi Danny? Il nominativo non me lo ricordo adesso. Chi non ho più visto neanche cosa, Fabiana, che modulava dietro casa mia, era la sorella di cosa, di quello che il mio collega che lavorava insieme a me da Prospero. Non l'ho più visto né a lui, tanto meno la sorella. Prima la vedevo molto spesso a una e all'altra, adesso mi sembra che lui sta lavorando alla San Martino, SPA, e non ha già più visto. Dunque il barattino c'era sempre, perché c'erano le portate dei 40 canali e più un altro baracchino, ma non l'hanno più usato. Ma tu stai dicendo a Monica? No, Monica è quella di carica. No, di Carbonazzi, ce n'era una che modulava con la sorella anche. Monica è l'altra, sì, esatto, sì. E vabbè, c'era anche Roberta lì vicino, che modulava lì la Carbonazzi, la avevo la malfa lo stesso. Poi si è sposata lei e anche la sorella Kitty, quindi vivo da di due. Su Facebook la vedo ogni tanto, la saluto. Io ho detto se volevamo portare le PMR per parlarci, mi ha detto lascia perdere Antonella, non me ne frega niente, mi ha detto. Ma a chi l'hai detto? A Roberta. Quella fa teatro. Esatto, sì, fa teatro, sì. Lo so. Non ho fatto anche qua in Piazza del Turi. Sempre uguale, da quando l'ho conosciuto è sempre uguale. Sembra, come si dice, sempre giovane, ragazzi. Lo so. Già lo so, ogni tanto già la vedo pure io. Io l'ho visto un paio di volte qua sotto. E una volta l'ho spinto, l'ho trovata. Perché frequenta qualche volta qua al bar d'Andrea, qua sotto casa. Prima si chiacchierava, adesso... E oramai sono sposate, quindi usa baracchino, non saranno, usa solo me il computer per parlare e basta, non usa altro. Ma infatti. Adesso vado a prepararmi la pizzetta, me la scaldo e me la mangio, al limite ci sentiamo dopo, se si è l'ascolto. No, devo uscire io. A domani, ciao. Io vabbè, sono a domani, al limite. Buonanotte, Luca, ci sentiamo. Adesso vado a mangiare e faccio un vammi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.